Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo La Cantastorie Zoe di e con Marzia Castiglione e Matteo Frasca, regia Tiziana Scrocca. Fai la ninna, fai la nanna, tesoruccio della mamma, della mamma e della nonna, del papà, se poi ritorna. Fai la ninna, fai sonnetto, mentre la mamma prepara il pranzetto, lo prepara con pane e burro, fiorellino rosso e azzurro. Fiorellino, fiorellino, c'è una rosa nel giardino, c'è una rosa con tante foglie, ci va Zoe e la raccoglie, la raccoglie piano piano e la mette nella sua mano. La raccoglie pianino pianino e la mette nel suo lettino. La nascita, la nascita è un lieto evento per tutte le famiglie, sì, proprio un lieto evento. Poi le nascite si somigliano un po' tutte, i fiori, i regali, la felicità dei parenti e dei genitori. Mi chiamo Zoe. In quei momenti non c'è solo la felicità. Tutti i bambini nascono e piangono. Io nasco ma non piango, non respiro nemmeno, mi manca l'aria, non riesco a prenderla da nessuna parte. Com'è possibile? Fino a un attimo fa me ne stavo tranquilla e al sicuro nella pancia di mia madre. E adesso non riesco a respirare. I dottori stanno qui intorno a me, li vedo, sono pallidi come cenci, si danno da fare, ma hanno paura. Io sono piccola e la sento la loro paura. Quasi riesco a toccarla. In questi momenti senza respirare, il sangue, il mio sangue, non arriva al cervello. È per questo questo motivo che i miei neuroni si stanno lesionando. I neuroni sono le cellule più bastardi del nostro corpo, perché una volta lesionate non si rigenerano più. 5 minuti. Ho solo 5 minuti per decidere se vivere oppure no. Sì, Zoe. Sei in ospedale e sei appena nata. Sei appena nata e non respiri. E se tu non respiri, tu morirai. E come faccio a non decidere di vivere se non so come sarà la mia vita? Hai 5 minuti per immaginare come sarà la tua vita. Ci stai? Ci sto! Primo minuto. La famiglia di Zoe. Allora, Zoe, stiamo al primo minuto e tu? E io ancora non respiro. Sì, sì, tu non respiri, ma abbiamo tempo. Abbiamo tempo per immaginare. E come si fa? Sì, è vero, come si fa? Si fa dalle cose che sono vicine a te per immaginare. Allora, guarda lì al di là del vetro, che trovi? Allora, vedo mamma, nonna, nonno, zio Aristide, zia Gemma. Sì, sì, sì, sì, e loro lo sai come si chiamano? No. Tutti insieme come si chiamano? No. E che ne sai tu? E te lo dico io. Si chiamano famiglia. Ah. Famiglia. Ma sono lontani. Lo so, sono lontani. Te li vado a prendere io. Hai ragione. Per andare nella sala la gioia. Lei è stata la prima a guardarmi. Anch'io l'ho guardata. Come se già lo sapevo che quella signora alta e distinta sarà proprio lei a prendersi cura di me. Sì, mia nonna, e se crescerò andremo, mi porterà dappertutto, in vacanza, al cinema, viaggeremo, mi porterà persino a New York. Ma quando io me ne starò seduta, ferma, a piangermi addosso, lei si arrabbierà e mi dirà: dai, forza, Zoe, muoviti, non serve a niente stare lì a piangerti addosso, pettinati, vestiti, sistemati, andiamo al cinema. Va bene, nonna, hai ragione tu, nonna, sì, ora mi preparo, non ti faccio fare danni, è vero, non serve a niente piangerti addosso. Me ne sto qua, io ti ho fatto un record del sommozzatore, però già so dentro di me che arriverà una sorella. Sì, una sorella più piccola, e si chiamerà Fiore. Arriverà. Quando saremo piccole, io gli vorrò insegnare tante cose, e lei non ci sta, si ribella, perché mi vede proprio come una bambina rompiscatole, sì. Ma poi, col tempo, le sorelle piccole crescono e diventeremo due amiche, due ragazze, due complici. Lui è medico, sa benissimo come sto. Se ne sta in fondo, un po' in disparte, non vuole far preoccupare tutti gli altri, gli batte forte il cuore, e anche a me batte forte. Come a compensare i polmoni che sono ancora immobili. Crescendo, la sua pacatezza si trasformerà in saggezza, e quando andrò da lui, in preda a mille ansie, mille dubbi, mille paure, lui mi dirà: non ti preoccupare, Zoe, questo sta giusto così, quest'anno sta giusto così, sì, ha sempre famiglia manca sempre qualcuno. L'orario di visita si è concluso. I familiari sono pregati di uscire da reparto. Sì, la famiglia non può stare sempre con te. A un certo punto tutti se ne vanno e tu rimani da sola. No, non voglio rimanere da sola. No, e allora chi starà con te se tutti vanno via? Tu rimani. Va bene, io rimango. Secondo minuto. L'infanzia di Zoe e tanti perché. Ecco, hai sentito? Secondo minuto. Quindi siamo già nel secondo minuto? E io? Tu? E tu? Io ancora non respiro! Sì, ancora non respiri, ma questo è il meno. Tu hai tempo! Stai nel secondo minuto, hai tempo per immaginare la tua vita. Sai come funziona la vita? No. No? È facile. È facile, eh? Ci sono un po' di personaggi. Cioè, all'inizio compaiono i bambini. I bambini, sì, i bambini. I bambini. Carini, sì, i bambini. E poi però i bambini non rimangono sempre bambini. Crescono e diventano... Che succede? Aspetta. Crescono e diventano insopportabili. Diventano adolescenti. Che brutto! Sì, è una parola brutta. Che parola è? È una parola che sembra, sì, una malattia. Però non si rimane adolescenti per sempre. Si cresce ancora, si cresce. E poi si diventa dritti. Si sa quello che si deve fare. Si diventa adulti. E adulti lo si è per tanto tempo. Un adulto dura tanto, così. Un adulto dura tanto. E poi però finisce che ritorna... Bambino. No, quasi. Diventa di nuovo curvo, diventa di nuovo... Bambino. Piccolo, ma non è più piccolo, diventa anziano. Oh. E poi succede? Si muore! Come? Ah no, scusa, ma questo neanche te lo dovevo dire, certe cose non si dicono ai bambini. Dicevamo bambini, tu sei una bambina, e come tutti i bambini, che fanno i bambini? Fanno i bambini, che fanno? Che piangono, fanno? Ridono, Boh, non c'è niente però, non c'è niente. Sì, hai ragione, sì, i bambini giocano, e questo è il loro compito è giocare finché possono, e io sono qui apposta per te, apposta per farti giocare, guarda che t'ho portato. Bella, una cesta di giochi! Una cesta tutta per te, con un sacco di cose che puoi fare quando vuoi, come vuoi. C'è la corda per saltare a corda, e poi ci sono delle biglie per fare giochi di precisione, e poi gli elastici per sentirsi così agile, e poi la bambola! Sì, le bambole che le puoi portare nel passeggino dove vuoi, e poi puoi correre, saltare. E poi... Ecco, ti gioco! Bello. Che giochi inutili! No, ma che giochi schifosi, brutti! Brutti! Questi non sono giochi per te, ma questi sono giochi per bambini perditempo! Questi non servono a niente! Che ci fai con una corda? Questa serve per qualcun altro! E che ci fai con le biglie? Con le biglie tutti, che ci fai? Le biglie servono per qualcun altro, qualche altro bambino perditempo, maledetto monellino! E guarda qui, le bambole sono oggetti inanimati! Le bambole non vivono! Senti, guarda! Questa non vive! Se si sbatte! Non c'è niente di vivo, sono tutti morti, tutte cose morte. A te non ti serve questo, perché i giochi, questi servono per i bambini per altri bambini, ecco, per quelli. Oh! Cos'è? L'ospedale! No, che ospedale? Questo è un suono che sentirai ogni giorno. E questo è un suono familiare, questo è un suono divertente, questo è il suono della campanella. È la campanella che ne so? Scuola! La campanella della scuola! Andiamo a scuola, ti va? No! Ecco, no, la scuola è un posto dove bisogna andarci, ecco, tutti i giorni, per tanto tempo. Tutti i giorni bisogna andare a scuola, tranne un giorno che non so più qual è. Però forse tu andrai anche quel giorno lì, perché a scuola bisogna andare, ecco. A scuola bisogna andare e si va con le cartelline, ecco, con le cartelle e con gli zaini. E si fa tutto un percorso per arrivare a scuola, perché bisogna sentirli già i pesi sulle spalle. Ti ci devi abituare, capito? Mettiti la cartellina che andiamo a scuola, andiamo, andiamo. Andiamo. E lo vedi? Passeggiamo, c'è il sole, gli alberi, gli uccelli. Ma tu non li vedrai la mattina questa casa, manco il pomeriggio. Che ti serve vedere? E perché starai a scuola? Guarda, guarda, guarda. Saliamo le scale. Guarda, è aperto il cancello. I cancelli della scuola sono sempre aperti. Allora, entriamo, entriamo, perché poi li richiudono e sembra che da lì non esci più. Guarda l'aula, guarda, guarda, quella è l'aula. E ora ci entriamo. Aspetta. Guarda, vedi, quello è il banco e c'è una sedia, eh? Quello ti ci devi proprio infilare, incastrare dentro, non ti devi proprio muovere, come va bene? Ecco, sì, è incastrato, guarda, dopo dite, vai. Ecco, arrivata. Ecco, incastrata. Non muovere niente, non muovere le gambe. Non serve a niente muoversi. Manco le braccia, anche se ti viene da fantasticare da... Niente, le braccia le stanco. Ecco, bene, così. Adesso, attenta, guarda tutto quello che c'è intorno, guarda, ci sono tante cose interessanti. Per esempio, ci sono le finestre. Le vedi le finestre? Le finestre, sì, però sono finestre pure grosse, ma non si vede mai quello che c'è fuori, perché il fuori dentro la scuola non entra mai, hai capito? Sai, le finestre serve per capire che c'è un fuori, ma tu non ci puoi andare. C'è una... Perché ti ci devi abituare a questa luce. C'è sempre una luce accesa, una luce al neon, e questa è così che vedi le cose importanti. Guarda dall'altra parte che c'è, guarda, e c'è tutto il mondo che ti aspetta. Quello è il mondo, sai come si chiama quel mondo? Cartina geografica, e lì ci sono i mari, i fiumi, i monti, le città e le... No, ma che sei matta? Sei matta a dire una cosa del genere? Non si può andare. Non ti devi abituare a vedere, a sapere ma non toccare. Sapere ma non toccare. Ma perché? Non si può andare. No, quelli te li devi imparare a memoria. E ti pare che ci devi andare. È una cosa ridicola. Ti devi imparare il nome dei fiumi, dei mari, delle città. E no, ma che è difficile abituare. Qui si impara tutto, si impara tutto a memoria. È tutta la cartina. È tutta... No. Per questo ci vai per tanto tempo a scuola. Perché tutta quella cartina la saprai in memoria. Guarda, là. C'è un'altra cosa interessante. Sì. La vedi? È bella. Quella... È tutto nero. E quella è la finestra nera, la finestra più interessante. Quella più usata. Che cos'è? Bella. Quella finestra si chiama lavagna. Lavagna. Boh. Sulla lavagna bisogna scrivere tutto quello che la maestra dice. Tutto quello che la maestra scrive bisogna farlo bene con il gessetto. E lo senti il suono del gesso? Lo senti? È fastidioso! Ti rimane dentro come un fastidio permanente. Sì. Ma tu devi scrivere per non sbagliare, Non sbagliare, pure. Perché se sbagli. Che succede? Il nero. Che fa? Ti risucchia! E poi vieni messa dietro la lavagna perché hai sbagliato. Sai perché stai dietro la lavagna? No. Perché sei in punizione. Che pizzetta a scuola? Ma ancora non sai niente. Sei appena arrivata e subito a emettere sentenze. No, dietro la lavagna puoi stare un po' di tempo. Basta che non vedi quello che succede. Basta che non vedi negli occhi gli amici e tutto. Devi fissarlo il nero, perché ti devi rendere conto che hai sbagliato. Perché stai in punizione. Ti ci devi abituare alle punizioni. Stai in punizione. E devi fissare il nero. Fissa il nero, quel nero. Lo devi fissare, così ti ci abitui, no? Perché se non ti ci abitui, poi il nero se non ti ci abitui... Ti risucchia! Ti risucchia e non ti... Oh, guarda, è arrivata la maestra. Fatti trovare pronta. pronta. No, no, aspetta, aspetta, senza fare, trovare pronta, non ti rimuovere, non ti rimuovere, perché tocca a lei muoversi, arrivare fino alla cattedra. Ecco, ecco, sta sulla cattedra, si siede, fa l'appello, tu devi dire sempre presente. Tu devi dire presente. Presente. Ecco, presente, presente, brava, perché tanto l'appello lo farà sempre presente. Beh, è una vita. No, no, no, no, adesso sta facendo lezione. Sta, vedi la bocca grande che dice cose grandi. E tu, guardala bene quella bocca, guardala bene, perché devi ripetere le stesse cose. Non devi pensare alle cose che vuoi dire, devi ripetere le cose che lei bene, dice. Bene. Che cosa? Ah, brava. Mi. Ci. Ci. Di. E. F. G. G. È tutto così. Sì, brava, l'H non lo dire che è muta. Ah, allora, guarda chi sta arrivando. I bambini! Altri bambini! Mica siamo soli a scuola, ci sono i bambini che sono incastrati pure loro per bene come sardine. Come noi! Vedi, guarda come sono incastrati, già si annoiano e che fanno? T'hanno sentito parlare, t'hanno visto. Ti hanno visto, Zoe. Sì, guardano! Guarda che fanno! No, no, no, ci! No, ci guardano! Guarda bene chi guardano! Guardano te! Guardano te, certo, perché ti fissano! Perché ti fissano, perché tu sei con quella voce lì, con quel modo di muoverti là, tu sei... Chi sono? E sei una persona piena di effetti speciali, ecco! È questo che capito, che attrae la loro attenzione, ma non ti preoccupare, non ti guarderanno oggi! No, non ti guarderanno solo oggi, ti guarderanno anche domani, dopodomani, anche quando cresceranno, ti guarderanno sempre, ti ci devi abituare perché i fissatori fissano, e se no che fanno? E come fanno a vivere? I fissatori fissano, e Zoe ci si abitua, ti ci devi abituare, devi ripetere e devi imparare a memoria, devi imparare, ripetere, capire, e così tu ti stai sempre lamentando, ma vedo che impari poco! Devi recuperare, tu sarai sempre un po' in ritardo rispetto agli altri, tu devi imparare a scrivere anche prima, tu. E ti devi fare furba, e certo, sì, devi non imparare, fare. Guarda, impariamo a scrivere già da oggi, dai, guarda, ti do questo foglio bianco, lo senti? Guarda, è un foglio bianco enorme. Tutto così bianco. Grande, no! Io voglio andare via! Tu lo devi... No, beh, via! Lo devi riempire da cima a fondo. Devi scrivere le cose, le tutto lettere. Tutto quanto, è gigante! Esatto, ma si comincia sempre dalle cose più semplici. Per esempio, cominciamo da quella lettera, dalla I. Ecco, fai la I, che è la I? Come si fa? E devi fare una cosa dritta che parte da sopra e finisce sotto. Una cosa dritta, devi andare, ecco, solo questo. Ho capito, allora bravo. Prova. Aspetta, eccola qua, fatta. Guarda che bella l'ho fatta. Manzoe, ma questa è la Torre di Pisa. Ma che hai fatto? Hai fatto un autoritratto? Questa cosa ti somiglia troppo, è sghemba, è storta come te. No, vediamo con la P, fai una sorta di pancetta a questo sgorbio. Vediamo. Aspetta, ora la faccio, ecco, giro, giro, ecco, fatta! Sì, l'hai fatto. Hai fatto il naso di Pulcinella. Ma che è? Ma non le devi fare. Le cose devono essere dritte. Le lettere devono essere scritte bene. Ti devi allenare. Scrivere, allenare. Ti ci devi abituare. Devi affaticare. Perché è così? Perché è la scuola. Perché dove stai? Stai a scuola. Mica stai da qualche altra parte. Stai a scuola. La scuola si ripete. A scuola si impara e ci si abitua alle cose. E ci si abitua anche ai fissatori. E bisogna scrivere, ripetere. E bisogna ripetere, scrivere. Ti ci devi abituare, faticare. Ti devi anticipare sui tempi pure. Devi faticare, ripetere, scrivere, che ripetere. Perché è così? Perché è così? Perché? Perché sono monello? Perché son senza cuore né cervello? Perché son libero e giocondo? Eppur non so spiegarlo a questo mondo. Perché non voglio andare a scuola? Perché dai libri non imparo una parola? Perché la vita è tanto bella? Eppur si sa non tutto il mondo balla a tutti questi cento e tuoi perché, perché io cerco una risposta anche per te. E gridalo, soffialo, gridalo, che scoppi il fine il mondo. Urlalo, gridalo, la vita è tanto bella, me la vorrei goder. Basta poco per campare, che mi importa di studiare, il bambino da ubbidir, fare i compiti e capire. Che c'è ora? Cosa hai fatto? Hai smesso di scrivere? Eh? E come ti sei spostata? Come sei arrivata alla zona? Sulle ginocchia! Come una bestia! Io mi muovo come mi pare, senti? Come una bestia? Sì. E certo, e poi pretendi rispetto se cammini a quattro zampe! Pretendi rispetto, ma tu sì. Devi imparare a camminare sulle tue gambe. Ma che vergogna sei, uffa. Tu devi imparare a camminare come dico io, così, non così. Perché non sei bravo una pizza? Terzo minuto. Gli esercizi di Zoe e il limite. Allora Zoe, hai sentito? Queste cose sono importanti da sentire. Siamo al terzo minuto. E tu ancora non respiro. Ma no, ma chi se ne importa di quello che non respiri? No, ma soprattutto tu non cammini. E questa cosa non può essere. Dobbiamo ragionarci, dobbiamo lavorarci sopra su questa cosa qua. E dobbiamo trovare una soluzione. Io sono venuto qui perché camminare è bello, camminare ti serve. Camminare è un gioco. Camminare è un gioco. Hai visto che prima ci ho levato tutti quei giochi inutili? Perché erano veramente, veramente stupidi. Dei giochi che nessuno, con cui nessuno dovrebbe giocare. Perché, quelli sono per i bambini che saltano, corrono. E sono quei per i bambini perdi tempo così, che hanno da muoversi, da essere così, saltare tanto. No, tu hai bisogno di alcuni giochi che tutti ti invidieranno. Capito? Hai bisogno, per esempio, di un tappetino. Ecco, un tappetino dove sdraiarti. Bello. E mentre tutti gli altri... No, è brutto. No, mentre tutti gli altri giocano con quelle cose per correre, per saltare, tutto, il tuo gioco è un tappetino dove sdraiarti e poter immaginare quello che vuoi. Guarda, eccolo qua. Ma mi sdraio. Brava. Ora mi riposo. Brava, sdraiati. Che meraviglia. Come ti invidio. Che gioco meraviglioso. Mi rilasso. Come se ci fosse il cielo con tutte le nuvole da immaginare. Le forme. È bellissimo il vento sulla pelle. Sì, lo sento. Però dopo un po' diventa noioso. No, sto bene. No, guarda che diventa noioso. Infatti i giochi sono belli mi quando... Riposo. No, i giochi sono belli quando si complicano. Guarda, ho una palla. La vedi questa palla? Bella, è grande, leggera. Questa palla la mettiamo sui piedi. Tu sei sdraiata e questa palla la mettiamo sui piedi. E tu adesso che fai? La vai a prendere. Prendi la palla, dai. È lontano, uffa. Devi alzarti tutta, non a metà. Eccola! Brava, adesso... Non pensare, adesso portala con te giù. No, così! E non so, che vuoi fare? Vuoi essere Mimì Aiuara? Le palle non si usano così! Non la devi usare così, questa palla! Ferma! Portatela giù! Ah, sì, perché hai bisogno di riposare un attimo. Ecco. Brava, così facciamo i muscoli un po' dappertutto. Bene. Adesso guarda che faccio io. Poi lo fai da sola, ma guarda che faccio io. Questa palla la rimettiamo ai piedi, in fondo. E tu che fai? La vai a prendere. Perché è così? Perché è più divertente. Se no, che fai? Ce l'hai sempre così tra le mani. E invece così la raggiunge. Guarda, vai. Sei un po' antipatico. No, io sono solo saggio. Vai. Prenditi questa palla, su, fallo da sola. È faticoso. Ecco, l'ho presa. Bene, adesso giù. Ecco così. E basta. Giù e su. Bisogna trovare un ritmo per fare tutto questo. Tu poi quando sei stufa puoi anche puoi anche cambiare posizione, metterti dall'altra parte. È come per fare le flessioni, ma non fai le flessioni perché c'hai la palla che ti metti sotto. Ecco così, brava, bravissima. E poi quando sei stufa ti rimetti così a vedere il cielo, le nuvole. E piano piano trovi il tuo ritmo, trovi il tuo senso nel fare questo. Fammi mangiare, poi le pressioni, è tutta una fatica. Su, vai in ginocchio. I piegamenti. Vai. Ti lamentare? Pure, ma sta zitto, suono. Non ti lamentare, ti devi abituare. I fissatori ti fissano. Io faccio gli esercizi. Vabbè. Giù. Giù. Di nuovo giù. E poi ancora su. Su. Su. Ora mi tiravo su, ma posso, ecco piano, mi tiro su, ancora un po' più su, ecco dritta, devo, no, così sto ricadendo. Devo salire! Devo essere dritta! Dritta così, ecco! Ancora un po' più su! Ecco! Ci sono riuscita! Ricadendo, no, non posso ricadere. Se di casa ricomincio, devo ricominciare. Allora, un piede, l'altro, poi mi appoggio con le mani e mi tiro su. Ecco. Ho ricominciato! Adesso sono dritta! Come hai fatto? Come hai fatto? Che è successo? Tu stai in piedi? Sì, mi sono stata in piedi, hai visto? Tu stai in piedi e cammini? Cammini? Hai fatto tutto da sola? Sì, ci sono riuscita. E tu riesci a fare tutto da solo? Io? Sì, tu ci riesci. Beh, Zoe, nasciamo tutti con una parte morta dentro. Tutti. E questa parte si chiama il proprio limite. Il limite è fastidioso. È noioso. No, gli errori no. Gli errori sono coriandoli, sono coriandoli colorati. Gli errori ce ne sono tanti, si possono fare in tanti modi diversi, in ogni momento della giornata, della vita. No, gli errori sono leggeri, colorati. Ma il limite è sempre lo stesso. Sì, e parlando con le persone te ne accorgi. E perché? E te lo fanno pesare, no? E ti dicono... E accetta, accetta questi limiti, no? Accettali. E poi ti dicono... Ma insomma, li superiamo o no questi limiti? Eh? E qua è il dilemma. Si accettano o si superano? Perché non dobbiamo prenderci in giro. E noi tutti vogliamo somigliare agli dèi, eh? Vogliamo superarli, i limiti. Ma come si fa a superare? Come si fa a superare il limite? Se è il limite quello che costruisce lo spazio entro cui devi stare e te lo ritrovi davanti, dietro, di fianco, sotto, sopra. I limiti sono il tuo spazio. Te lo ricordano le persone quando ti chiamano. Non ti dicono mai ti dicono tu sei una persona infinita. Tu sei infinito. Tu sei infinito come persona. No, ti dicono, e tu sei limitato, sei un po' limitato, oppure, lui, sai che è una persona limitata, sì, oppure, no, sai, per quanti sforzi tu faccia, non ci arrivi proprio. Sei limitato. Ecco. È così. È così. Io sono limitato, sì. Io ho il limite proprio mio. Quello vero. Quello che ho solo io, no? Che mi accompagna da una vita. Quella cosa delle attività... delle cose manuali, delle cose che richiedono concentrazione e precisione e concentrazione, quelle cose lì. Quelle sono una condanna per me. Le persone che ti vogliono bene ti spiegano come fare le cose, come quel fatto là, quella cosa di mettere il quadro dritto. Ecco, io non ci riesco. Io lo metto sempre storto, sempre storto, mai una volta. E le persone ti dicono come si fa, ti dicono, te lo spiegano una volta... Te lo spiegano una seconda volta, e poi te lo spiegano una terza e una quarta. E poi lo fanno al posto tuo. Eh sì, tanto tu non ci riesci, lo fanno al posto tuo. E a te ti sale una rabbia, no? Un bollore, un rossore, una cosa che vorresti spaccare tutto, ma... Ma è pure un sollievo. Sì, pure un sollievo, perché loro lo sanno fare così bene. Proprio, li riesce proprio bene a loro. Riesce bene fare a loro le cose che tu non sai fare. È così, e allora ti metti dietro di loro, no? Loro si mettono davanti e tu come un'ombra cerchi di fare la stessa cosa, il martello, il chioto, con precisione, con precisione, ogni colpo, tac, una precisione, una cosa. E poi lo vedi questo quadro che è esteticamente bellissimo, perché guarda caso, è dritto, che certo, è bello perché è dritto. E tu dici, ma allora sono stato... No. Non sono stato io, neanche stavolta. E allora poi le persone, quelle là che ti vogliono bene, ti dicono di non preoccuparti, che tu hai altre qualità. E tu sei una persona sensibile, e sì, e tu sei un musicista, e tu ci fai ridere, e tu... Beh, allora io sono un concentrato di cose ridicole e stupide, se neanche riesco ad attaccare un quadro. Allora sì, non bisogna rassegnarsi. No, c'è sempre una possibilità. E io ci posso riuscire. Sì, ce la faccio. Basta che non mi fissate tutti così. Se vi girate un attimino, io ci provo. Ecco, prendo il martello, il chiodo, batto. Lo appendo. Non c'è niente da fare. È storto. Quarto minuto. I momenti belli di Zoe. allora, Zoe, sì. Zoe? Sì, momenti belli. Momenti belli, sì. Zoe, però, dove sei? Non ti vedo. Dove? Ti perdi il meglio adesso, eh? Sì, i momenti belli. Hai sentito la voce? I momenti belli. Adesso ci dobbiamo vedere quelli. Che la vita è bella, Zoe. Zoe, dove? Dove? Zoe? Zoe? Ah! Oh! Oddio! Che stai qui? Eccomi, sono tornata. Ma sei tornata? Che sei andata a prendere? Che c'è? Una macchina fotografica, non vedi? Una macchina fotografica? Sì! E quindi vuoi andare in giro tu, eh? Sì! Vuoi andare a fare una passeggiata? Sì! Per davvero, non guardando la cartina! Vabbè, sì, dai, sì, si può, si può. Adesso proprio si può. Dire... Bisogna trovare il soggetto giusto, che non sempre si fotografa quello che viene. Attenzione! Guarda là! Ma che bello! Ma certo che sei fortunata, Eccola la rondine! Una rondine in posa! Solo per te, la vera rondine che fa primavera, Sì. Solo per te. E fermala, però! Che la fotografo! Ferma! L'hai immaginata? Ferma! Sì, l'ho fermata! Ok. No, per favore, andiamo via. Questo non ti deve interessare. Questo è il sole che tramonta. Non lo sopporto il giorno che finisce così. Questo bisogna dimenticare. E quella dall'altra parte che... Sì, guarda là. Quella è l'amba. Quella è... E comincia tutto. E lì comincia tutto. E fermala, perché il sole lì va su. Ok, la fermo. Ecco, l'ho fatto. Bravissima, guarda. Ma dove siamo capitati? Ma non ci credo. Il mio mito, la cosa... Ma belli... non ti vedi vicino! Posso fare una foto con lei? Certo! Ti metti in posa! Sì, io e... Io e Grimilde, nella stessa posa! Io e... libertà! Certo! Aspetta, ecco, così! Fermo! Fermo! Ecco, l'ho fatta! E fammi vedere com'è venuto, fammi vedere che capolavoro hai fatto! Bello! Un po' così... Grimilde e il naso! Vabbè, ma non fa niente. E puoi sempre migliorare. Andiamo ancora in giro. Guarda. Ma che è quella cosa? No, qui è tutto le macchine, i motorini. I motorini, guarda bene. Ma che c'è di bello? Lì c'è una ragazzina. Guarda che prende... bene, una ragazzina. Ma che, quella ti somiglia? Sono io. Ma non ci credo. Sul motorino. Elettrico. Ma quella ha 13 anni, c'è proprio... Sì, un motorino elettrico a quanti amore. E caspita, ma non spiegare, fermala, fermala. Fatelo. Oh, dall'altra parte, quella che è un incidente, vedo una macchina tutta ammaccata. Chi c'è lì dentro? Incidente di parte, quella sono io nella mia macchina. Vabbè, ora... E l'ho presa subito la patente. Ma quella è tua so... No, sono io. Quella è vero, sei tu. È vero, la danno a tutti la patente, anche a te, sì. A te ti danno un'altra. No, anche a me ancora no. Comunque, guarda, andiamo. Ma quel lì in cima alla montagna chi c'è? Nonina, chi è? Sei tu, che metti la batterina. Ma che bello! È lì in mezzo alle stelle, lì nello spazio. Che viaggia, che balla, che danza, chi sei? E quella sei te. E quella sul vulcano! Quella sul vulcano che esplode insieme a tutti gli altri! La pelle che... Quella sei tu! Quella sei... Sì, con la cannuccia! E quella che bello! Bello il vino! E quella pure sulla luna! Mi piace! E quella sulla luna, lì sul cratere, con la straia! Indovina! E quella sei sempre tu! È sempre tu! Arrivi dappertutto però, mamma mia! Sì. Incredibile! E qua... Hai capito! Mamma mia, qui che folla, piena di gente! Chi c'è qua? Gente... È la mia famiglia, quella di prima. Volevi fare una foto alla famiglia? Vabbè, falla la foto alla famiglia. No, ma non vedi quella in mezzo col tagliere tutta elegante? Vabbè, chi è? Quella chi è tua sorella che si sposa. Ancora col fiore. Quella sono io. Quella sei tu. Ma sei bellissima. È il giorno della laurea. E che ti sei laureata? In scienze dell'educazione. Complimenti. Grazie. Dottoressa Zoe. Sì, dottoressa. Quinto minuto. Il sogno e l'incubo di Zoe. Ah, giusto, a proposito di cose belle. A proposito di cose belle, sì, c'è il sogno, sì, bisogna parlare dei sogni, bisogna trovare il tuo sogno, sì, è vero. Non abbiamo troppo tempo. Il sogno... Che cosa è il sogno? Vabbè, sì, adesso provo a spiegartelo. Guarda, sognano tutti, sognano proprio tutti, i bambini, gli adulti, gli anziani. Ma poi quando si è ragazzi, ragazze come te, il sogno... qualcosa che rimane dentro. Io sono piccola. No, tu sei cresciuta, non te ne sei accorta, ma sei cresciuta, sei una ragazza, come tutte le altre. E quando sei adolescenti, il sogno è una cosa che rimane dentro. Uno vorrebbe spaccare il mondo per conservarlo o per realizzarlo. È questo che fa degli adolescenti un po' dei malati, perché loro sono malati di sogni, capito? È questo, No, non capito bene, no, spieghi bene. I ragazzi sognano, ecco, i ragazzi sognano. Non mi è chiaro che cosa sognano. Eccolo. Vorrei diventare un paleontologo ed abitare in Canada. Vorrei poter vivere in un mondo dove non esiste la violenza. Il mio sogno è di diventare un archeologo. Vorrei diventare un artista, oppure svolgere un qualsiasi altro lavoro creativo. Ma soprattutto vorrei avere una famiglia numerosa e unita. Il mio sogno è quello di diventare un architetto di successo in America. Il mio sogno è di diventare un programmatore informatico. Vorrei essere un critico culinario. Il mio sogno è di diventare un avvocato. Vorrei diventare l'allenatore di calcio della Roma. Io vorrei diventare un dottore. Vorrei viaggiare in tutto il mondo per scoprire ogni cultura e poi diventare traduttrice in Giappone. Vorrei diventare una commercialista di successo e sogno di lavorare per un'agenzia di viaggi. Vorrei svegliarmi un giorno e trovarmi in un mondo dove tutte le persone vengono considerate buone. Da grande vorrei essere un inviato sportivo. Vorrei diventare una persona di successo. Il mio sogno è di andare a vivere in America con la mia famiglia. Vorrei diventare un biologo famoso e restare in Italia a studiare nuove specie. Il mio sogno è di diventare un campione di nuoto. Il mio sogno è quello di riuscire a viaggiare intorno al mondo per conoscere nuove culture. Vorrei anche diventare una donna realizzata. Il mio sogno è quello di essere felice per tutta la vita e non perdere le persone che amo. Il mio sogno è diventare veterinario. Vorrei diventare un avvocato. Il mio sogno è diventare un calciatore. Adesso avrai capito, no? Hai capito? Sì, ho capito! È una cosa bella! È una cosa bella, ma questi sono i sogni degli altri. E bisogna trovare il sogno tuo, capito? Sì, non ce l'ho. Non, quella voce lì, no. Come non ce l'hai? Cominciamo dalla cosa più semplice. Che cosa ti piace? A me piace pensare, però poi i pensieri diventano tanti e fuggono, non riesco a fermarli. Ah, benissimo, quindi ti serve un fermapensieri, ecco. Un fermapensieri, è facile, ci hai lavorato tanto fin da bambina, è una cosa che ti riuscirà a fare. È la scrittura, è che ti deve scrivere, le lettere, te lo ricordi? Sì, che pizza. Ma che pizza, quello devi avere qualcosa a cui pensare e poi scrivere. Vabbè, ci provo. E facciamo la prova, no? Riprendiamo il foglio. No, adesso sarà tutto più semplice, guarda. Vai, pensa e poi scrivi. Allora, penso... Ce l'ho! E vai! Scrivo! Scrivi! Vedete? Allora... non però è scappato! Ci metto troppo! È scappato proprio? Ma come fai a me essere ancora così lenta? Guarda, incredibile! E mi dispiace per te! Questo, lo capisco che questo ti piaceva, però così i pensieri scappano. Non è un sogno che fa per te. Ma mi piace questo! E devi cambiare sogno, ci sono sempre i sogni di ripiego. Pensane un altro. Che brutto ripiego, c'è solo una parola! No, i sogni sono belli tutti. Ah, a proposito, ti ricordi durante quelle passeggiate, no, dove tu trovavi le foto, le foto giuste, le cose? E io ho trovato una cosa lasciata lì per strada, una sorta di, ecco, una tavola, così, con... Bello, ridere! E sono tutte dritte! E sono, certo, se no era cattiveria. Eh sì che sono tutte dritte. Questa è una tastiera. È una tastiera, sì, e ci sono tutte le lettere, sì, belle pronte. Tu non devi far altro che premere ogni tasto e compare la lettera che tu vuoi. Però, attenzione, funziona solo se hai qualcosa da scrivere. Quindi devi pensare prima di scrivere. Molti fanno il contrario, capito? Ho capito, allora aspetta che penso. Ecco, zio! Vediamo. Zio, una cosa da scrivere. Comincia. Z O E S C R I V E. Zoe! Zoe! Scrive, ecco il mio sogno. Zoe scrive. E scrivi? Sì, scrivo. Cara Zoe, i bambini sognano. Loro sì, loro possono. Poi si cresce, lo sai? E bisogna smettere di sognare, perché ci sono un sacco di cose da fare, un sacco di cose da fare, un sacco di cose che si devono fare. E allora bisogna rinunciare ai propri sogni. Zoe, sei pronta? Sei disposta a rinunciare ai tuoi sogni? No! Non mi puoi chiedere di rinunciare ai miei sogni dopo tutta la fatica che ho fatto per averli, per raggiungerli, per conquistarli. Non mi dici di rinunciare ai miei sogni, ad alcuni posso sì, ma non a tutti, non è giusto. Non è giusto, non è giusto, pensi sempre a te stessa, eh? Eppure Eppure gli altri? Gli altri chi sono per te? Ma gli altri sono degli appoggini! Gli altri sono degli appoggi su cui tu puoi fare quello che vuoi, puoi chiedere quello che vuoi, l'hai fatto da una vita, lo continui a fare, lo farai per sempre, gli altri sono sempre a tua disposizione, vero? Sempre, sempre, sempre! E quando bussano alla porta tu credi sempre che ti portano dei regali, dei fiori, dei favori, che tu puoi chiedere loro. Ma arriverà un giorno che sentirai bussare alla porta. Chi sarà? Oh, e tu tutta contenta vai ad aprire, perché già ti aspetti tanti regali, tante cose da chiedere. Apri la porta e chi vedi? Vedi gli altri bianchi in volto, con le occhiaie. Tutti invecchiati, tutti ci sono, tutti che chiedono a te qualcosa e ti dicono: Zoe, per favore, almeno una volta ci aiuti, noi l'abbiamo fatto per tanto tempo, ora perché non aiuti tu noi, perché non ci aiuti, abbiamo bisogno di te. E tu sei disposta, Zoe, ad aiutare gli altri? Sì, certo che gli aiuto gli altri, ma sono gli altri che devono capire che non si rendono conto che mi serve da loro, innanzitutto da loro, un piccolo aiuto per fare le cose pratiche. Per tagliare la carne a tavola, sono gli altri che mi devono aiutare e poi vado da loro. Ecco, con la macchina sento che vado da loro, gli aiuterò anch'io, ma loro devono capire. Loro devono capire, sempre loro, perché tu vuoi stare sempre al centro dell'attenzione, per te tutto ruota intorno a te, gli altri sono dentro la tua vita, tu non sei mai nella vita degli altri, capisci? Perché è un problema proprio congenito a voi handicappati, che vi sentite sempre inadeguati, sempre, sempre, e per quanto le persone lo possono nascondere, lo possono sussurrare, lo possono solo pensare, ma vorrebbero gridarlo che tu sei un'handicappata, un'handicappata, un'handicappata, un'handicappata, un'handicappata, un'handicappata! No, non sono io la mia handicappata, sono loro che non vogliono capire, loro che si nascondono, sono loro i veri handicappati, non io! Non io, sono loro che con le loro paure mi stanno levando l'aria, non mi fanno respirare, non riesco a respirare, mi stanno soffocando con le loro paure, non mi aiutano. Mi devono l'aria!